Yeah. Yeah. Come on. Fire. Sette, otto, nove, uno, precisamente vengo al mondo in una terra che non porta il nome di nessuno. Mi sento vagabondo. Tutto quello che ho dato, tutto quello che ho ricevuto, il mio presente e il mio passato, nelle strade dove sono cresciuto. Case, quartieri e viuzze, giorni interi con gli amici veri sotto il sole delle piazze. Ungheria, skate e Bangladesh, eravamo in sintonia, ma la vita non è stata così facile. Ma siamo dei bastardi, ci crediamo anche quando abbiamo 30 anni. E tu che fai l'indifferente, per noi non conta, conta solo fare le differenze. Questa va a chi ci crede ancora oggi, ci crede da sempre. Yeah, yeah. Da queste vie siamo cresciuti, sì. Sai, le stesse vie ci hanno portato insieme. Da quando uomo. Quando un incontro poi diventa suono. Senti com'è. Questo è quello che facciamo. Work, work. Va così, va, yeah, così, sì. Palermo City nel posto. Lo sa. Jamba. Yeah. Five. Al micro. Yeah. Tu ascolta. Amoni. Jamba. Five. Da Palermo pompo in rima, strade dove ho fatto vita. Se c'è un orizzonte chiamami bisonte, lo raggiungo con tutte le forze. Vado dritto sì spedita, come scorre la mia vita. Cartoline da corso dei mille, garaffello, barbecue, scintille. Vado come un treno, non mi freno come quando avevo più tempo. Anche se col tempo ho mantenuto il tempo, evoluzione notte e tempo. Il mio cuore nero argento, la mia anima nel tempo. Il giro per i miei palazzi, rimo con i miei ragazzi per tenermi fresco. E non ho catene, c'è chi non ci crede, brucio in tempo breve. Non guardo la tele, bevo per te sete, fuoco a tutte le bandiere. Dai fratello che succede? Niente che non vada bene. Solo che non fai una minchia per restare in prima linea insieme. Amuni, yeah, ok, F-I-V-E. Questa è my soul. L'unione di due teste, Five e Jamba, che diventano suono. Yes, è vero Jamba. Yeah. Come hai detto tu, è questo quello che facciamo, no? Sto Jamba. Palermo City, yeah. Capito bene da dove veniamo, Terronia. E questa è la nostra anima. I feel the blues all the way down in my soul.